Radio 24 Reportage. Agroalimentare, la Puglia a tavola contro la crisi, di Jacopo Matano. Seconda traversa a sinistra nel viale. Negli anni 60 a Milano Giorgio Gaber cantava Il Barbera dei Poveri. Era in realtà un vino pugliese che arrivava di qualità e a basso costo a far la concorrenza al Barbera. Abbiamo capito da allora che bisogna dare visibilità al territorio. Ascanio Spagnoletti è l'ex provveditore agli studi della provincia di Bari. Qualche anno fa è tornato in campagna, ad Andria, per prendere in mano la masseria di famiglie e trasformarla in un bioagriturismo. Storie come la sua si incontrano tra i padiglioni della Fiera del Levante di Bari, dove l'agroalimentare di Puglia è oggi sotto i riflettori per i suoi ottimi risultati. Crescono consumi ed esportazioni del vino, quello che piaceva ai milanesi cantato da Giorgio Gaber, ma anche dell'olio, della pasta, della burrata e degli altri prodotti tipici di una regione che da secoli riempie le nostre tavole. E allora operatori del settore, istituzioni si chiedono se la Puglia possa battere la crisi ripartendo da qui. Francesco Di Vella, imprenditore della pasta. La classe imprenditoriale del settore dell'agroindustria pugliese è viva, è dinamica, è vivace. La Puglia ha registrato tra i migliori tassi di export nel 2011 e nel primo semestre nel 2012. Conosce picchi di performance nei settori dei vini, dell'ortofrutta, ma anche delle granaglie, del latte, della pasta. Quali sono i mercati verso cui la Puglia esporta? La Puglia è forte nel Medio e nell'Estremo Oriente, ma è forte anche negli Stati Uniti, in Canada e in Sud America. Naturalmente c'è uno scambio comunitario che è rilevante, però è interessante il fatto che dall'altra parte dell'oceano, cioè in Estremo Oriente e in Giappone, sono diventati dei grandi apprezzatori dei prodotti tipici pugliesi, richiedendo sempre miglioramenti. La Puglia rispetta dunque la sua vocazione di porta dell'Oriente e i numeri dell'export dell'agroalimentare parlano chiaro. Crescita dell'11% nel 2011, più un altro 10% nel secondo semestre 2012. Ma il boom dei prodotti alimentari, avvertono gli operatori, rischia di sgonfiarsi per colpa di un'agricoltura ancora arretrata. Tra i campi e le masserie del Tavoliere e delle altre zone agricole, l'ultimo censimento dell'Istat ha rilevato per la maggior parte aziende piccole, 5 ettari di media e quasi tutte ad unico proprietario. Loredana Capone, vicepresidente della regione, e Raffaele De Leo, storico ed esperto dell'agricoltura pugliese, fanno luce su questi dati. Dove si è investito? Nell'innovazione, nella trasformazione? Oggettivamente i risultati si sono visti e i risultati sono stati verso l'esportazione, quindi internazionalizzazione. Ma nella stragrande maggioranza dei casi, di chi non ha avuto il coraggio o la forza di investire, praticamente è rimasta questa frammentarietà, tra l'altro con lotti di terreno anche piccolissimi, a differenza di altre regioni d'Italia. Il grande problema storico della polverizzazione fondiaria è un problema che interessa ancora oggi molte aziende, oppure ancora l'aggiornamento degli agricoltori, oppure l'età media di chi tiene un'azienda, quindi il grande problema della piccola proprietà contadina che è anch'esso di antica data. Quindi le variabili sono molte, sicuramente andremo incontro con la crisi ad un quadro ancora più sfaccettato e diversificato. A minare la capacità di sviluppo dell'agricoltura non è soltanto la struttura dei campi. All'inizio di settembre la regione è stata costretta a dichiarare lo stato di emergenza a causa della siccità che ha colpito la Puglia tra marzo e agosto. L'ondata di caldo è stata straordinaria, ma non troppo, se si pensa che il nome latino Apulia deriva da apluvia, cioè assenza di pioggia. È affermato lo sviluppo anche della cosiddetta quarta gamma, il segmento della frutta e verdura lavata, imballata e pronta per il consumo, in cui il territorio pugliese gioca un ruolo fondamentale perché è leader in Italia per la produzione di lattuga. La crisi dell'agricoltura però non ha fermato il processo, seppur lento, di trasformazione degli altri settori dell'agroalimentare, in particolare quello zootecnico. Grazie ai bandi del programma di sviluppo rurale finanziato dal Fondo Europeo per l'Agricoltura, gli allevatori pugliesi hanno ridotto i costi per la manodopera e la produzione. Mariangela Netti ci racconta come funziona il suo allevamento tecnologico. I nostri animali sono tutti muniti di un collare con un transponder, quindi vengono rilevati in sala mungitura, ognuno singolarmente col suo codice, e una volta che è stato pesato tutto il latte che ha prodotto, con quello stesso segnale, quando loro si avvicinano a una mangiatoia elettronica, vengono di nuovo riconosciuti e in base al latte che hanno prodotto la mattina in sala mungitura avranno del concentrato, un concentrato naturale fatto da mais, favino, orzo, quindi materie prime essenziali. Quindi tutto viene registrato, quanto latte ha fatto, quanto concentrato ha mangiato, e se una vacca non sta bene sicuramente il computer ci dà un allarme e noi come allevatori interveniamo subito, uno spendendo sicuramente di meno su medicinali, due spendendo di meno su quello che è il latte che deve essere magari eventualmente distrutto. Colmare il digital divide consente oggi agli agricoltori e agli allevatori pugliesi di risparmiare e di adeguarsi agli standard nazionali, ma non basta. Per mantenere alto il livello dell'export e oltrepassare la crisi, quello che gli operatori chiedono a gran voce tra i padiglioni della fiera è un maggiore investimento in tema di deburocratizzazione, formazione e soprattutto promozione del territorio. Avremmo bisogno di maggior supporto nel presentarci sui mercati mondiali, avremmo bisogno a livello di offerta di materie prime di maggior agglomerazione dell'offerta, le cosiddette OP, le unioni degli agricoltori. Noi siamo dei bravi produttori, però non abbiamo quell'imprenditorialità che ci può permettere di fare il salto di qualità. È un problema di visione delle istituzioni o di cultura in genere dell'agroalimentare pugliese? Secondo il mio punto di vista è tutte e due insieme. Io penso che manca anche un po' la volontà politica a intraprendere questo tipo di strada. Che cosa fate? Cosa producete? Noi alleviamo allo stato brado cinghiali e produciamo carne e salumi di qualità. Ecco, siete di nicchia anche perché il settore è molto ristretto. Che cosa significa fare i conti anche con questa dimensione? Beh, sicuramente siamo molto svantaggiati perché chiaramente la Toscana può magari vantare di un'offerta un po' chiaramente più larga. Gli aiuti che le aziende agricole hanno avuto dalla comunità europea troppo spesso sono stati investiti nel trattore, nel rimorchio, nella struttura di conservazione dei prodotti, di immagazzinamento dei prodotti, piuttosto che nel marketing del territorio. In tema di marketing territoriale, la Puglia oggi un brand, prodotti di Puglia, e un marchio specifico per DOP, IGP e biologico denominato prodotti di qualità. Due strumenti che consentono di portare con maggior forza sulle piazze nazionali ed estere i prodotti locali. Una promozione che non è soltanto rivolta al mercato. Attraverso questi interventi la regione intende invogliare i giovani ad investire sull'agroalimentare, magari rilevando e trasformando le aziende di famiglia. Ancora Loredana Capone. Riteniamo che l'agricoltura sia davvero ancora un settore sul quale non solo investire ma puntare. Puntiamo ad avere un'agricoltura che non soltanto abbia la possibilità di avere prodotti tipici e locali che trovano sbocco in altri mercati, ma abbia anche la possibilità di trasformare il contadino di un tempo che oggi purtroppo non ha prospettive e che si vede arrivare a 80 anni senza avere un erede che svolge l'attività sul territorio, a trasformare i suoi possibili eredi, giovani, figli o altri che vogliano investire nelle aziende, in imprenditori con la I maiuscola che si dedicano anche al mercato con nuove opportunità. E a promuovere il passaggio tra le generazioni della cultura dei prodotti tipici di Puglia pensano anche i progetti rivolti alle scuole, come quello delle masserie didattiche. 93 tra agriturismi, fattorie e allevamenti insegnano ai bambini il lavoro sul campo e nei campi. Anche quella di Ascanio Spagnoletti è una masseria didattica. Noi siamo registrati in un elenco di un albo regionale. Una volta che la regione ci riconosce come struttura idonea ad accogliere le classi, ci apriamo alle scuole che dal 2000, dotate di autonomia, possono liberamente elaborare progetti educativi integrativi dei corsi didattici tradizionali e che diventano un aspetto complementare per far conoscere alle giovani generazioni le ricchezze del territorio. Perché noi non abbiamo il petrolio, abbiamo le pietre e l'olio, e le pietre e l'olio non hanno voce, saranno le giovani generazioni che dovranno dare voce alle pietre che sono i muretti a secco, le cattedrali, i castelli, le antiche strade romane o i tratturi, mentre l'olio rappresenta l'enogastronomia, il vino, la burrata, le verdure, la frutta, tutto ciò che il nostro territorio ha sempre prodotto, ma con scarsa visibilità. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.